Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le interviste di Mystery Tour in onda qui su Radio Onda d'Urto sin dal lontano 1998. Stasera abbiamo un altro ospite. Chi abbiamo? Chi abbiamo dall'altra parte del filo? Buonasera. Ciao, buonasera, sono Filippo, il bassista del Labirinto di Specchi. Oh, perfetto. Allora, intanto diciamo che come spesso accade. Questo bel progetto, uno dei tanti bei progetti che il buon Loris Furlan ci manda. Salutiamo il buon Loris, Sì, salutiamo Loris. vecchio amico di Mystery Tour, vecchio in senso di età di amicizia, non di età anagrafica. E quindi ci scopre sempre dei grandi talenti con la sua coraggiosissima Lizard Records. Come siete entrati in contatto con Loris? Ma guarda, diciamo in modo quasi casuale perché abbiamo registrato un demo nel 2007. Un tot di copie le abbiamo destinate a delle case, a delle etichette indipendenti, tra cui c'era anche la Lizard, che è stata l'unica che ha dimostrato poi interesse per il nostro lavoro. Il coraggio di Loris, cioè, lo porta a sperimentare sempre nuove strade, perché non c'è un progetto uguale all'altro nella Lizard Records. Sì, davvero, è una cosa. Io non conoscevo bene la realtà della Lizard, se non prima, ecco, di entrarci in contatto, di entrare in contatto con Loris, però devo dire che è una realtà davvero molto bella, una realtà eterogenea, si trovano molte sfaccettature della musica, e questo credo sia una cosa davvero molto importante e molto bella. Assolutamente, noi possiamo fregiarci per questioni anagrafiche di aver visto nascere la Lizard ancora quando era sotto etichetta della Pickup Records e i primissimi interessantissimi progetti come gli Spirosfera, per esempio, grandi gruppi, Alembic Virtual, insomma, tante tante belle cose. Alembic Virtual erano della Pickup, altra etichetta che allora faceva cose mirabolanti. Comunque, chiusa la parentesi, Mitico Loris, voi invece vi siete formati, siete giovanissimi, quando vi siete formati? Ma noi ci siamo formati circa 5 anni fa, nel 2005. L'età E poi media diciamo, è l'età bassa. media, sì, siamo sui 22-24 anni, diciamo. E poi comunque sia un progetto che nel corso degli anni ha subito numerose modifiche, ecco. Ma questa passione per questo genere, che non sappiamo mai se definire rock progressivo o in un altro modo, data la giovane età? Ma sicuramente come tutti, un po' tutti i musicisti, si inizia con le band più classiche, rock classico, Deep Purple. Poi da lì c'è stata sicuramente la voglia di ricercare nuove sonorità, di cercare qualcosa di particolare, di fuori dal comune anche. Certo. E quindi abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato a scoprire gruppi e generi a cui mai avremmo pensato di poterci avvicinare. Quindi in un primo momento ci siamo aperti al grande progressive italiano, e negli ultimi periodi, quindi soprattutto in questi ultimi 2 anni, ci siamo avvicinati molto anche al post rock, al noise, quindi un'evoluzione musicale, un percorso musicale vero e proprio. E la nascita di questo album, io ricordo tra l'altro il titolo è Amblecheia. Amblecheia, ecco, mi ricordo i primi a usarlo in un titolo di una canzone furono nel lontano 94-95, i Landmark di Damian Wilson, cantante di Threshold, ha a che fare con le visioni dei nativi americani, no? Qualcosa. Sì. È nato anche il titolo stesso è nato dalla volontà comunque sia di realizzare un disco che fosse un concept album, quindi nel quale vi fosse una tematica di fondo una tematica che sposasse sia l'aspetto musicale sia l'aspetto testi, ma anche l'aspetto, se vogliamo, il discorso artwork, quindi l'aspetto anche copertina, l'aspetto più visivo del CD stesso. E la genesi, cioè quando è nato questo album in realtà, la musica? Questo disco è un disco che di cui alcuni pezzi, quattro pezzi erano già presenti nel demo che avevamo realizzato nel 2007, pezzi che poi comunque sono stati modificati. E poi il disco in sé per sé è stato registrato, oramai sono già passati quasi 2 anni dalla registrazione, quasi 2 anni fa, perché le registrazioni sono iniziate nel febbraio 2009, poi per una serie di motivi, per anche una serie di collaborazioni che abbiamo realizzato, i tempi sono un po' dilungati e l'uscita è avvenuta nel dicembre, insomma fine dicembre del 2010. E la vostra attività live? La nostra attività live purtroppo attualmente è un'attività live ridotta, perché non si trovano qui nelle nostre zone, non si trovano molti spazi dove poter presentare un genere come questo. E non è bello da dire, però la situazione è questa, quindi ci limitiamo a fare sì qualche concerto. Abbiamo fatto un concerto il 29 di dicembre proprio di presentazione, però cerchiamo di prendere un po' quello che viene, non è sicuramente facile. No, assolutamente. Speriamo infatti che anche con avendo un lavoro ufficiale alle spalle, di avere un po' la possibilità di portare un po' più in giro la nostra musica, anche perché credo che per i gruppi underground la vera pubblicità si faccia proprio così, portando la propria musica in giro più che si può. E la vostra presenza online? La nostra presenza online, noi abbiamo il nostro MySpace, Labirinto di Specchi, e abbiamo anche una pagina su Facebook, e stiamo realizzando poi un sito, è in costruzione un sito nostro, insomma un sito proprio della band. E adesso i prossimi progetti per Labirinto? Ma prossimi progetti, sicuramente portare in giro questo lavoro, cercare di suonare il più possibile in giro e provare a buttare giù qualcosa di nuovo, cercando sempre di sperimentare nuove sonorità e affacciandoci quindi un po' di più anche all'aspetto, se vogliamo, noise, e cercando di recuperare anche dei tratti un po' più acustici. E come nascono i pezzi? Cioè c'è un aspetto letterario, un aspetto proprio più prettamente musicale? Sì, ma prima di tutto nasce il pezzo dal punto di vista musicale, uh-huh. Quindi noi diamo più importanza all'aspetto musicale in sé per sé, quindi alla costruzione del pezzo, e poi dal pezzo, anche da quelle che sono le emozioni che il pezzo genera in noi, traiamo anche dei testi che possono essere comunque sì alla fine contestualizzati anche con la musica stessa. Allora, adesso, prima di salutarci, ricordiamo appunto, se avete prenduto un messaggio finale agli ascoltatori, quale può essere? Ma non saprei, di tenere duro soprattutto in momenti come questi, di continuare a credere nelle proprie passioni nonostante molte volte si trovino grandi difficoltà. E dunque, cosa andiamo a ascoltarci per chiudere, e perché? Perché ci ascoltiamo questo brano? Ma ci ascoltiamo Purpurea, perché credo che sia uno dei pezzi, prima di tutto è uno degli ultimi pezzi che abbiamo realizzato, e credo uno dei pezzi nei quali si riassuma meglio l'essenza dei Labirinto di Specchi. Allora, ti chiedo una conferma tecnica, perché mi sto perdendo con i titoli scolpiti nell'albero, con i titoli incisi anzi nell'albero. Sì, parliamo del brano numero 5. Del brano numero 5, sì. perché poi già io ho problemi di vista, però è bellissimo questa idea che si ricollega chiaramente al concept sempre dei nativi americani, un rapporto comunque con la natura, giusto? Sì, di recuperare soprattutto la visione che molto spesso viene vista, se vogliamo, come un'evasione dalla realtà, recuperare invece la visione e vedere nella visione un momento fortemente rivelatore dell'essere, quindi qualcosa da interpretare anche per il futuro. A proposito, io sento qui una narrazione, abbiamo omesso un dettaglio, avete un ospite alla narrazione? Sì. Di chi si tratta? Abbiamo un graditissimo ospite che è il nostro caro amico Paolo Carelli, che è stato veramente un piacere fare questa collaborazione con lui, e riguardo a questo devo appunto ringraziare Loris, che ha fatto da tramite, ha fatto da ponte e è riuscito, se vogliamo, ad unire la vecchia tradizione, quindi un gruppo come, se vogliamo, il Folas Dactylus, con la nuova, di cui noi speriamo di essere portatori. Assolutamente. Graditissima sorpresa, veramente, questa di graditissima collaborazione con quella di Paolo. È stato veramente un momento davvero molto emozionante, quello, sia la sua conoscenza sia la sua collaborazione all'interno dell'album. Per noi è stato davvero molto emozionante, ha significato molto, come entrare in contatto con un pezzo di storia del progressive italiano. Assolutamente. Da allora noi ci sentiamo presto, quando avrete novità facciamo un'altra intervista, mi raccomando, fatevi vivi. Molto volentieri, grazie. E noi ci andiamo ad ascoltare Purpurea. scivolando si sciolgono le catene della coscienza, gocce purpuree. Percepite, guardate l'energia della vita. Ne facciamo parte. Siamo colmi di lei. Siamo privi di lei. E abbiamo paura.